GR Europa. Buongiorno da Adriana Fracchia, benvenuti al nostro appuntamento con il GR Europa. Dopo il dibattito in aula la scorsa settimana giovanile in Europa, una delegazione di eurodeputati della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento di Strasburgo è oggi a Madrid. Il dossier sotto esame sono le misure avviate dal governo del Premier Mariano Rajoy. L'emergenza occupazione ha raggiunto in Spagna livelli senza precedenti, con 6,2 milioni di senza lavoro, pari al 27,2% della popolazione attiva, superiore al 57% fra i giovani. E mentre sembra profilarsi il tempo dell'austerity morbida e al Parlamento europeo il dibattito è già acceso con le discussioni sul prossimo bilancio, l'Europa apre la settimana dovendo fare i conti con lo schiaffo arrivato dall'Islanda. Nel voto del fine settimana è emersa la netta vittoria dell'opposizione di centrodestra euroscettica. Nel paese la maggioranza della popolazione è convinta che il Parlamento di Reykjavik debba continuare a mantenere il controllo totale sulle sue politiche e in particolare quelle legate alla pesca, piuttosto che negoziare con Bruxelles e con i paesi come il Regno Unito e la Spagna, che hanno interesse ad abbassare le quote islandesi in questo settore. Sotto osservazione dell'Europarlamento c'è anche un altro paese, l'Ungheria. Il dossier Ungheria andrà all'esame della Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo. I deputati hanno seri dubbi che le numerose modifiche apportate alla Costituzione non siano in conflitto con le leggi europee. Si potrebbe arrivare alla sospensione del diritto di voto per l'Ungheria, ricorda Pino Arlacchi, europarlamentare e membro della Commissione Esteri e Sottocommissione Diritti dell'Uomo. L'ha intervistato Laura Bettini. La strada giusta è far capire al governo Orban che si sono già messi fuori dai principi fondamentali dell'Unione Europea. Nel momento in cui hanno ridotto lo Stato di diritto, hanno riformato la Corte Costituzionale restringendo le sue prerogative, hanno iniziato una politica di repressione e quasi di persecuzione delle minoranze, della minoranza Roma interna al paese, hanno ridotto la libertà stampa e di parola. Loro non possono continuare su questa strada senza avere dei costi notevoli. In primo luogo la sospensione del loro diritto di voto, ed è la prima regola che stiamo discutendo, per poi andare avanti. Solo che questa poi deve essere la linea che manteniamo in maniera imparziale verso tutti i paesi, anche per i diversi grandi paesi che potessero incamminarsi nella stessa direzione. E a rivolgersi al Parlamento europeo anche Taranto. Il presidente del fondo antidiossina Fabio Matacchiera e il presidente di Peace Link Taranto Alessandro Marescotti hanno inviato una lettera al presidente del Parlamento europeo Martin Schulz sollecitando un'attenzione particolare sulla vicenda Ilva. I due ambientalisti hanno chiesto al più presto incontri con i vertici del Parlamento europeo. È tutto per questo appuntamento con il GR Europa. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.